ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. La bottega dell'americano, del parrucchiere dei signori, era l'unica delle tre che sembrasse una vera bottega di barbiere. C'era uno specchio, tutto appannato dalle cacche di mosca. C'era qualche seggiola di paglia e al muro erano attaccati ritagli di giornali americani, con fotografie di Roosevelt, di uomini politici, di attrici e reclam di cosmetici. Era l'unico resto dello splendido salone in non so più quale strada di New York. Il barbiere, ripensandoci, si rattristava e si faceva cupo. Che cosa gli rimaneva della bella vita di laggiù, dove era un signore? Una casetta in cima al paese, con la porta pretenziosamente scolpita e qualche vaso di geranio sul balcone, la moglie malaticcia e la miseria. Non fossi mai tornato. Questi americani del 1929 si riconoscono tutti all'aria delusa di cani frustati e ai denti d'oro. I denti d'oro brillavano, anacronistici e lussuosi, nella larga bocca contadina di faccia lorda. Un uomo grosso, robusto, dall'aspetto testardo e astuto. Faccia lorda. Chiamato da tutti con questo soprannome, forse per il colore della sua pelle, era invece un vincitore nella lotta dell'emigrazione e viveva nella sua gloria. Era tornato dall'America con un bel gruzzolo. E anche se l'aveva già in parte perduto per comprarsi una terra sterile, ci poteva ancora modestamente campare. Ma il vero valore di quel denaro consisteva nel non essere stato guadagnato col lavoro, ma con l'abilità. Faccia lorda, la sera, tornando dai campi, sull'uscio di casa sua o passeggiando per la piazza, amava raccontarmi la sua grande avventura americana, felice per sempre della sua vittoria. Era un contadino. In America faceva il muratore. Un giorno mi danno da svuotare un tubo di ferro di quelli che servono per le mine, che era pieno di terra. Io ci batto su con una punta, invece di terra c'era la polvere e il tubo mi scoppia in mano. Mi sono un po' sgraffiato qui sul braccio, ma sono rimasto sordo. Si era rotto il timpano. Là in America ci sono le assicurazioni. Dovevano pagarmi. Mi fanno una visita. Mi dicono di tornare dopo 3 mesi. Ma dopo 3 mesi io ci sentivo di nuovo bene, ma avevo avuto l'infortunio. Dovevano pagarmi se c'è la giustizia. $3,000 dovevano darmi. Io facevo il sordo. Parlavano, sparavano, non sentivo nulla. Mi facevano chiudere gli occhi. Io mi dondolavo e mi lasciavo cadere per terra. Quei professori dicevano che non avevo niente e non volevano darmi l'indennità. Mi fecero un'altra visita. E poi tante altre. Io non sentivo mai nulla e cadevo per terra. Dovevano pur darmi il mio denaro. Siamo andati avanti per 2 anni che non lavoravo. I professori dicevano di no e io dicevo che non potevo far nulla, che ero rovinato. Poi i professori, i primi professori dell'America, si sono convinti e dopo 2 anni mi hanno dato i miei $3,000. Mi vengono per giustizia. Sono subito tornato a Gagliano e sto benissimo. Faccia lorda era fiero di aver combattuto da solo contro tutta la scienza, contro tutta l'America, e di aver vinto, lui, piccolo cafone di Gagliano, i professori americani, armato soltanto di ostinazione e di pazienza. Era del resto convinto che la giustizia fosse dalla sua parte, che la sua simulazione fosse un atto legittimo. Se qualcuno gli avesse detto che egli aveva truffato i $3,000, si sarebbe sinceramente stupito. Io mi guardavo bene dal dirglielo, perché in fondo non gli davo torto. Ed egli mi ripeteva con orgoglio la sua avventura e si sentiva nel suo cuore un poco un eroe della povera gente, premiato da Dio nella sua difesa contro le forze nemiche dello Stato. Mi venivano in mente Quando Faccia Lorda mi raccontava la sua storia, altri italiani incontrati in giro per il mondo, fieri di essersi battuti contro le potenze organizzate della vita civile e di aver salvato la propria persona contro la volontà assurda dello Stato. Ricordavo fra gli altri un vecchio incontrato in Inghilterra a Stratford-sul-Avon, il paese di Shakespeare, con un carrettino di gelati tirato da un pony, infiocchettato e scampanellante. Si chiamava Saracino, sul carretto era scritto Saracen all'inglese. Era di Frosinone, portava ancora gli anelli alle orecchie e parlava male un italiano romanesco. Appena si accorse che ero un italiano, mi raccontò subito che egli era fuggito dall'Italia 50 anni prima per non fare il soldato, per non servire il re d'Italia, e che in Italia non era più tornato. Con i gelati aveva fatto fortuna. Tutti i carretti della provincia erano suoi. I suoi figli avevano studiato, uno era avvocato, l'altro medico. Ma quando venne la guerra nel 14, egli li mandò in Italia perché non servissero il re d'Inghilterra. E quando, poi, l'anno dopo, anche il re d'Italia avrebbe potuto prenderli, non abbia paura. Ci siamo arrangiati. Ma il re non l'abbiamo servito. Anche per il vecchio Saracino, come per Faccia Lorda, questa non era un'azione vergognosa, ma la gloria della sua vita. Me la raccontò, felice, frustò il cavallino e partì. Faccia Lorda aveva vinto, ma anche lui era tornato. E tra poco, malgrado i denti d'oro, non lo si sarebbe più distinto dagli altri contadini. A lui, il racconto della sua avventura dava ancora un ricordo preciso, per quanto limitato e particolare, dell'America. Ma gli altri, in breve, la dimenticavano. Tornava ad essere per loro quello che era stata prima della partenza e anche, forse, mentre erano laggiù. Il paradiso americano. Qualcuno, più pratico e più americanizzato, forse come quelli che restano laggiù, ne ho visto a Grassano. Ma questi non erano contadini e badavano con ogni cura a non lasciarsi riprendere dalla vita paesana. Uno, a Grassano, stava seduto su una sedia ogni giorno sull'uscio di casa, sulla piazza, a veder passare la gente. Era un uomo di mezza età, alto, magro, vigoroso, con un viso di falchetto, il naso aquilino, la pelle scura. Era vestito sempre di nero e in testa portava un panama a larghe tese. D'oro non aveva soltanto i denti, ma la spilla della cravatta, i bottoni dei polsini, la catena dell'orologio, i ciondoli, i corni portafortuna, gli anelli, il portasigarette. In America aveva fatto fortuna. Faceva il sensale e il commerciante, forse, sospetto, un poco il negriero dei contadini poveri. Era abituato a comandare e guardava ormai con distacco e disprezzo i suoi compaesani. Tuttavia tornava al paese, dove aveva una casa, una volta ogni 3 o 4 anni, e si compiaceva di fare sfoggio dei suoi dollari, del suo barbaro inglese e del suo più barbaro italiano. Ma stava attento a non lasciarsi imbischiare. «Qui potrei restarci», mi diceva. «Denaro ne ha abbastanza. Mi potrebbero fare podestà. Ci sarebbe da lavorare in paese, da rifar tutto all'americana, ma sarebbe un fallimento e si perderebbe tutto. I miei affari mi aspettano». Consultava ogni giorno il giornale e ascoltava la radio. E quando si fu convinto che tra poco sarebbe scoppiata la guerra d'Africa, fece le sue valigie, si imbarcò sul primo piroscafo per non rischiare di rimanere bloccato in Italia e fuggì. Dopo il 29, l'anno della disgrazia, ben pochi sono tornati da New York e ben pochi ci sono andati. I paesi di Lucania, mezzi di qua e mezzi di là dal mare, sono rimasti spezzati in due. Le famiglie si sono separate. Le donne sono rimaste sole. Per quelli di qui, l'America si è allontanata e con lei ogni possibile salvezza. Soltanto la posta porta continuamente qualcosa che viene di laggiù, e che i compaesani fortunati mandano a regalare ai loro parenti. Don Cosimino aveva un grande affare con questi pacchi. Arrivavano forbici, coltelli, rasoi, strumenti agricoli, falcetti, martelli, tenaglie, tutte piccole macchine della vita comune. La vita di Galliano, per quello che riguarda i ferri dei mestieri, è tutta americana, come lo è per le misure. Si parla, dai contadini, di pollici e di libbre, piuttosto che di centimetri o di chilogrammi. Le donne che filano la lana su vecchi fusi tagliano il filo con splendidi forbicioni di Pittsburgh. I rasoi del barbiere sono i più perfezionati che abbia mai visto in Italia. E l'acciaio azzurro delle scuri che i contadini portano sempre con sé è acciaio americano. E sì, non sentono alcuna prevenzione contro questi strumenti moderni, né alcuna contraddizione fra di essi e i loro antichi costumi. Prendono volentieri quello che arriva da New York, come prenderebbero volentieri quello che arrivasse da Roma. Ma da Roma non arriva nulla. Non era mai arrivato nulla, se non l'UE e i discorsi della radio. Di discorsi in quei giorni se ne sentivano molti e Don Luigino si affaccendava a convocare le sue adunate. Era ormai ottobre, le nostre truppe passavano il Mareb, la guerra d'Abissinia era cominciata, popolo italiano in piedi. E l'America si allontanava sempre più nelle nebbie dell'Atlantico, come un'isola nel cielo, chissà per quanto tempo, forse per sempre. Questa guerra non interessava i contadini. La radio tuonava. Don Luigino adoperava tutte le ore di scuola che non passava a fumare sulla terrazza, concionando ad altissima voce, lo si sentiva dappertutto, ai ragazzi. E facendogli cantare Faccetta Nera, Bella Bissina, e raccontava a tutti in piazza che Marconi aveva scoperto dei raggi segreti e che la flotta inglese sarebbe presto saltata tutta per aria. Dicevano anche, lui e l'altro maggiore maestro di scuola, il suo collega della radio, che quella guerra era fatta proprio per loro, per i contadini di Galliano, che avrebbero avuto finalmente chissà quanta terra da coltivare, e una terra buona, che a seminarla la roba ci cresce da sola. Ahimè, i due maestri parlavano un po' troppo della grandezza di Roma, perché i contadini potessero credere a tutto il resto. Scuotevano il capo diffidenti, silenziosi e rassegnati. Quelli di Roma volevano far la guerra e l'avrebbero fatta fare a loro pazienza. Morire sopra un'amba Abissina non è poi molto peggio che morire di malaria nel proprio campo, sulla riva del Sauro. Pare che gli studenti delle scuole, i ragazzi della GIL, i maestri e le maestre di scuola, le dame della Croce Rossa, le madri e le vedove dei caduti milanesi, le signore fiorentine, i droghieri, i negozianti, i pensionati, i giornalisti, i poliziotti, gli impiegati dei ministeri di Roma, insomma tutto quello che si usa chiamare il popolo italiano, fossero in quei giorni pervasi da un'onda beatificante di entusiasmo e di gloria. Io, a Galliano, non ero in condizioni di constatarlo. I contadini erano più muti, tristi e cupi del solito. Di quella terra promessa, che bisognava prima togliere a quelli che l'avevano, e istintivamente pareva loro che questo non fosse giusto e non dovesse portar bene, non si fidavano. Quelli di Roma non avevano l'abitudine di far qualcosa per loro. Anche questa impresa, malgrado le chiacchiere, doveva avere qualche altro scopo che non li riguardava. Se quelli di Roma hanno denaro da spendere per la guerra, perché non aggiustano prima il ponte sull'Adri, che è caduto da 4 anni e nessuno ci pensa a rifarlo? Potrebbero anche arginare il fiume, farci qualche nuova fontana, piantare degli alberi nei boschi, invece di tagliare quei pochi che rimangono. Di terre ne abbiamo anche qui. È tutto il resto che ci manca. Perciò pensavano alla guerra come a una delle solite disgrazie inevitabili, come alle imposte o alla tassa delle capre. Non avevano paura di dover partire soldati. Vivere qui come cani, dicevano, o morire come cani laggiù, è la stessa cosa. ma nessuno, tranne il marito di donna Caterina, si presentò volontario. Del resto, si capì presto che non soltanto gli scopi, ma anche la condotta della guerra riguardava quell'altra Italia, di là dai monti, e aveva poco a che fare con i contadini. I richiamati erano pochi, 2 o 3 in tutto il paese, più qualche soldato di leva, e un giovanotto, Don Nicola, figlio di un prete allevato dai frati di Melfi e sottufficiale di carriera, che aveva dovuto partire tra i primi. Qualcuno dei più miserabili, dei contadini senza terra, che non avevano nulla da mangiare, allettati dai discorsi di Don Luigino e dalla promessa di alti salari, avevano chiesto di andare come operai. Ma le loro domande rimasero sempre senza risposta. «Non sanno che farsene di noi», mi dicevano questi poveri cafoni. «Non ci vogliono nemmeno a lavorare. La guerra è fatta per quelli del nord. Noi dobbiamo crepare di fame in casa nostra. E in America non ci si andrà mai più». Il 3 ottobre fu dunque una giornata squallida. Alla dunata in piazza, una ventina di contadini, racimolati a fatica dai carabinieri e dagli avanguardisti del podestà, ascoltavano imbambolati le parole storiche della radio. Don Luigino aveva fatto imbandire il municipio, la scuola, le case dei signori. Le bandiere tricolori ondeggiavano al vento, nel sole, frammischiate coi loro colori stranamente vivaci ai funebri stendardi neri delle case dei contadini. Fecero suonare anche le campane, che il campanario intonò al solito sulla sua lugubre aria di morte. La guerra allegra incominciò in quella indifferente tristezza. Don Luigino venne al balcone del municipio e parlò. Disse della grandezza immortale di Roma, dei 7 colli, della lupa, delle legioni romane, della civiltà di Roma, dell'impero di Roma che si sarebbe rinnovato. Disse che tutti ci odiavano per la nostra grandezza, ma che i nemici di Roma avrebbero morso la polvere e che noi avremmo ripercorso in trionfo le vie consolari di Roma perché Roma era eterna, invincibile. Disse ancora con la sua vocetta acuta molte altre cose di Roma che non ricordo. Poi aprì la bocca e si mise a cantare Giovinezza, facendo cenni imperiosi con le mani ai ragazzi della scuola perché dalla piazza lo accompagnassero in coro. Attorno a lui, sul balcone, c'era il brigadiere e i signori e cantavano tutti, tranne il dottor Milillo, che non era d'accordo. In basso, contro il muro, quei pochi contadini ascoltavano in silenzio, parandosi il sole che batteva loro negli occhi con la mano, foschi e neri come uccelli notturni. Vicino al podestà, di fianco al balcone, sul muro della facciata del municipio, spiccava bianca la lapide di marmo con i nomi dei morti della Grande Guerra. Erano molti, per un paese così piccolo, quasi una cinquantina. C'erano tutti i nomi delle famiglie gaglianesi, i Rubilotto, i Carbone, i Guarini, i Bonelli, i Carnovale, i Racioppi, i Guerrini. Non ne mancava nessuno. Di certo, o indirettamente, o attraverso i fratelli cugini o i compari di San Giovanni, nessuna casa era stata senza un morto. E più erano i feriti, i malati e quelli che avevano combattuto e se l'erano cavata senza danno. Perché, nelle mie conversazioni con i contadini, nessuno me ne parlava mai. Né mai si faceva cenno a quella guerra, né alle imprese allora compiute, né ai paesi visti, né alle fatiche sofferte. Il solo che me ne aveva detto qualcosa era il barbiere Cavadenti, e ne aveva accennato soltanto per mostrarmi come e dove avesse imparato la sua arte quando faceva il portaferiti sul Carso. Anche la Grande Guerra, così sanguinosa e ancora così vicina, non interessava i contadini. L'avevano subita e ora era come l'avessero dimenticata. Nessuno osava vantare le proprie glorie, raccontare ai propri figli le battaglie combattute, mostrare le ferite o lagnarsi dei patimenti. Se io li interrogavo, rispondevano brevi e indifferenti. Era stata una grande disgrazia, si era sopportata come le altre. Anche quella era stata una guerra di Roma. Anche allora si seguivano i tre colori, che qui sembravano strani, colori araldici di un'altra Italia, incomprensibile, volontaria e violenta. Quel rosso allegramente sfacciato e quel verde così assurdo qua giù, dove anche gli alberi sono grigi e l'erba non cresce sulle argille. Quei colori e tutti gli altri sono imprese nobiliari. Stanno bene sugli scudi dei signori o sui gonfaloni delle città. Che cosa hanno a che fare con quelli, i contadini? Il loro colore è uno solo, quello stesso dei loro occhi tristi e dei loro vestiti. E non è un colore, ma è l'oscurità della terra e della morte. Neri sono i loro stendardi, come la faccia della Madonna. Le altre bandiere sono i colori variopinti di quell'altra civiltà, spinta al moto e alla conquista sulle vie della storia e di cui essi non fanno parte. Ma poiché essa è più forte, è organizzata e potente, essi devono subirla. Oggi si moriva, non per noi, in Abissinia, come ieri sull'Isonzo sul Piave, come prima, per secoli e secoli, dietro i più vari colori in tutte le terre del mondo. Andavo leggendo in quei giorni una vecchia storia di Melfi, del zio, trovata frugando tra vecchi libri nella casa del dottor Milillo, dove andavo quasi ogni giorno a prendere il caffè e a chiacchierare con Margherita e Maria, le due ragazze sempre più baffute, ingenue e spiritate. Il libro è della seconda metà del secolo scorso e vi si racconta, tra le glorie locali, che viveva ancora in quegli anni a Melfi un vecchio contadino con una gamba di legno. Era stato arruolato nell'esercito di Napoleone e aveva perduta la sua gamba al passaggio della Beresina. Per più di mezzo secolo il contadino zoppicò sui selciati di Melfi, portando su di sé, per i suoi concittadini, l'assurdo segno di una civiltà che l'aveva marcato per sempre e che egli ignorava. Che cosa importava a un contadino di Melfi della Russia e dell'imperatore dei francesi? La storia, avrebbe detto baroccamente Victor Hugo, gli aveva preso una gamba ed egli non sapeva neppure che cosa essa fosse. La storia, del resto, questa storia altrui a cui questi paesi si sono sempre dovuti rassegnare, aveva lasciato ai concittadini dello zoppo dei segni anche peggiori. Poiché la rovina di Melfi, che era una città fiorente e popolosa, fu dovuta al fatto che un capitano francese, in guerra con gli spagnoli di Carlo V su per quelle montagne, decise a caso di serrarvicisi dentro con le sue soldatesche. Gli spagnoli di Pietro Navarro, agli ordini del Lautrec, assediarono Melfi, la presero, ammazzarono tutti i cittadini che trovarono e che non sapevano neppure che cosa fossero Francespagna, Francesco I e Carlo V, rasero al suolo le case e regalarono quel poco che rimaneva a Filippo d'Orange e poco dopo, in compenso delle sue vittorie marinare, al genovese Andrea Doria, che essi conoscevano ancora meno. Il genovese non si scomodò mai a visitare i suoi vassalli e così fecero i suoi eredi, limitandosi a mandare degli esattori che ne cavassero tutto il danaro possibile. Così, per gli imperscrutabili voleri di una storia che non li riguardava, i contadini di Melfi caddero per tutti i secoli che seguirono nella più nera miseria. Quanta gente, mossa da motivi ignoti, è passata come i francesi e gli spagnoli su queste terre. È ben naturale che i contadini, dopo migliaia di anni di ripetute uguali esperienze, non si entusiasmino delle guerre, diffidino di tutte le bandiere e lascino in silenzio che Don Luigino canti dal balcone le glorie di Roma. Gli stati, le teocrazie, gli eserciti organizzati sono naturalmente più forti del popolo sparso dei contadini. Questi devono perciò rassegnarsi a essere dominati, ma non possono sentire come proprie le glorie e le imprese di quella civiltà, a loro radicalmente nemica. Le sole guerre che tocchino il loro cuore sono quelle che essi hanno combattuto per difendersi contro quella civiltà, contro la storia e gli stati e la teocrazia e gli eserciti. Sono le guerre combattute sotto i loro neri stendardi, senza ordine militare, senza arte e senza speranza, guerre infelici e destinate sempre ad essere perdute, feroci e disperate, e incomprensibili agli storici. I contadini di Galliano non si appassionavano alla conquista dell'Abissinia. Non si ricordavano più della guerra mondiale, non parlavano dei suoi morti. Ma una guerra era in cima ai cuori di tutti e su tutte le bocche, trasformata già in leggenda, in fiaba, in racconto epico, in mito. Il brigantaggio. La guerra dei briganti è praticamente finita nel 1865. Erano dunque passati 70 anni e soltanto pochi vecchissimi potevano esserci stati partecipi o testimoni e in grado di ricordare personalmente quelle imprese. Ma tutti, vecchi e giovani, uomini e donne, ne parlavano come di una cosa di ieri, con una passione presente e viva. Quando conversavo con i contadini, potevo essere certo che qualunque fosse l'argomento del discorso, saremmo presto scivolati in qualche modo a parlare dei briganti. Tutto li ricorda. Non c'è monte, burrone, bosco, pietra, fontana o grotta che non sia legata a qualche loro impresa memorabile o che non abbia servito di rifugio o di nascondiglio. Non c'è luogo nascosto che non gli servisse di ritrovo. Non c'è cappelletta in campagna dove non lasciassero le loro lettere minatorie e non aspettassero i riscatti. I luoghi, come la fossa del Bersagliere, hanno preso nome da loro o dai loro fatti. Non c'è famiglia che non abbia parteggiato allora per i briganti o contro i briganti, che non abbia avuto qualcuno con loro alla macchia, che non ne abbia ospitato o nascosto o che non abbia avuto qualche parente massacrato o qualche raccolto incendiato da loro. A quel tempo risalgono gli odi che dividono il paese, tramandati per le generazioni e sempre attuali. Ma, salvo poche eccezioni, i contadini erano tutti dalla parte dei briganti. E col passare del tempo quelle gesta, che avevano così vivamente colpito le loro fantasie, si sono indissolubilmente legate agli aspetti familiari del paese. Sono entrate nel discorso quotidiano con la stessa naturalezza degli animali e degli spiriti. Sono cresciute nella leggenda e hanno assunto la verità certa del mito. Non intendo qui fare un elogio del brigantaggio, come pare che sia diventato di moda da qualche tempo da parte di letterati estetizzanti o di politici in malafede. Giudicato da un punto di vista storico, nel complesso del Risorgimento italiano, il brigantaggio non può essere difeso. Da un punto di vista liberale e progressista, quello appare l'ultimo sussulto del passato, che andava spietatamente stroncato, un movimento funesto e feroce, nemico dell'unità, della libertà e della vita civile. E lo fu realmente nella sua realtà di guerra fomentata e alimentata dai Borboni, dalla Spagna e dal Papa, per i loro particolari motivi. Ma il brigantaggio dei contadini è un altro. A guardarlo da quel punto di vista, non solo non si può giustificarlo, ma non si riesce nemmeno a intenderlo. Del resto, neanche i contadini lo giudicano e lo difendono. E quando ne parlano con tanta passione, non se ne gloriano. I suoi motivi storici e gli interessi dei Borboni, del Papa o dei feudatari, essi non li conoscono. Anche per loro quella è una storia triste, desolata e raccapricciante. Soltanto sta ad essi nel cuore. Fa parte della loro vita. È il fondo poetico della loro fantasia, è la loro cupa, disperata, nera epopea. Anche il loro aspetto oggi richiama l'immagine antica del brigante. Oscuri, chiusi, solitari, aggrondati, col cappello nero e il vestito nero e d'inverno il mantello. Sempre armati quando vanno nei campi, con il fucile e la scure. È il loro cuore mite, è l'animo paziente. Secoli di rassegnazione pesano sulle loro schiene e il senso della vanità delle cose e della potenza del destino. Ma quando, dopo infinite sopportazioni, si tocca il fondo del loro essere e si muove un senso elementare di giustizia e di difesa, allora la loro rivolta è senza limiti e non può conoscere misura. È una rivolta disumana, che parte dalla morte e non conosce che la morte, dove la ferocia nasce dalla disperazione. I briganti difendevano senza ragione e senza speranza la libertà e la vita dei contadini contro lo Stato, contro tutti gli Stati. Per loro sventura si trovarono ad essere inconsapevoli strumenti di quella storia che si svolgeva fuori di loro, contro di loro, a difendere la causa cattiva, e furono sterminati. Ma col brigantaggio la civiltà contadina difendeva la propria natura contro quell'altra civiltà che le sta contro e che senza comprenderla eternamente la assoggetta. Perciò istintivamente i contadini vedono nei briganti i loro eroi. La civiltà contadina è una civiltà senza Stato e senza esercito. Le sue guerre non possono essere che questi scoppi di rivolta e sono sempre per forza delle disperate sconfitte. Ma essa continua tuttavia, eternamente, la sua vita e dà ai vincitori i frutti della terra e impone le sue misure e i suoi dei terrestri e il suo linguaggio. Elio De Capitani ha letto Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini. Tecnico del suono Raffaele Stefani. Regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.